Sono 28, ognuno diverso, con la propria nazionalità, insieme uguali perché europei. La cittadinanza dell'Unione, conseguente a quella dello Stato membro, è il carattere comune a più di 500 milioni di persone. Tutte libere di muoversi, uno dei diritti fondamentali è infatti la libertà di circolazione e soggiorno in Europa, ma non solo. Avere il passaporto europeo permette, ad esempio, di viaggiare negli Stati Uniti senza la necessità di un visto. Intuendone tutti i vantaggi, c'è chi tra gli extraeuropei sarebbe pronto ad investirci risorse pur di averlo. D'altro canto c'è chi ha capito che gli investitori ci sarebbero e allora alcuni stati dell'Unione hanno pensato di introdurre requisiti economici per il rilascio del permesso di soggiorno e della successiva cittadinanza. Ultimo in ordine temporale Malta. Come spiega Owen Bonnici, viceministro della giustizia nell'isola del Mediterraneo. Abbiamo anche questa opportunità di diventare maltese tramite l'investimento. La cifra di cui parliamo si aggira attorno? È una cifra totale di più di 1 milione di euro, perché uno deve fare una contribuzione di 650.000 euro, uno deve fare pure investire in bonds e investimenti governativi per la cifra di 150.000 euro e poi uno deve comprare una residenza che è abbastanza cara comparando i prezzi qua a Malta. La notizia in tempi fulminei è arrivata a Strasburgo creando non pochi scossoni. Solo un paio di settimane fa il Parlamento europeo ha ribadito a gran voce il divieto di utilizzare il passaporto dell'Unione come prodotto commerciale. Con 560 voti favorevoli, 22 contrari e 44 astensioni, l'Aula a metà gennaio ha approvato infatti una risoluzione che critica gli stati come Malta, accusati di aprire le porte dell'Europa a coloro che possono permettersi di pagare cifre ingenti. Anche la vicepresidente dell'organo di Bruxelles è intervenuta affermando con forza: Citizenship must not be up. La cittadinanza non può essere messa in saldo. Il passaporto non è un foglio di carta. Tra gli elementi maggiormente contestati al governo maltese il fatto che non fosse previsto alcun requisito di residenza, poi aggiunto a seguito delle discussioni con i commissari europei, come spiega il viceministro maltese Bonnici. L'Europa ha avuto dubbi su questa questione. Di ottenere la cittadinanza senza avere un genuine link, un nesso genuino con il paese. Dopo aver fatto un meeting con la Commissione europea abbiamo chiarito le idee, abbiamo fatto un agreement di includere un obbligo di residenza di un anno prima di ottenere la cittadinanza. Legami con la terra a parte a preoccupare sarebbero piuttosto le potenziali identità degli aspiranti maltesi. Considerata la libertà di movimento che il passaporto europeo concede, non sono pochi in Europa a temere l'incursione di personaggi di dubbia legalità. Ma da Valletta assicurano. Abbiamo fatto un programma che è basato su due diligence che è molto stretto, molto rafforzato. Ci sono varie serie di due diligence che uno deve soddisfare e sono molto molto molto stretti. Li effettuerete voi o l'azienda che si occuperà delle pratiche, la Henley & Partners, che avete individuato tramite bando? No, ci saranno esami fatti da tre entità. La prima ente sarà Henley & Partners, che farà un esame. Faremo un esame indipendente da Henley & Partners, noi come governo maltese, e farà un esame pure una entità internazionale che è molto qualificata su questo settore, indipendentemente da noi e da Henley. I controlli della società inglese saranno quindi incrociati con quello dello Stato che consulterà i database di Interpol e Europol. Ma alcuni dubitano del fatto che un'azienda privata che guadagna in percentuale sulle vendite, il 4% del versamento, sia davvero accurata nelle selezioni dei candidati. Malta punta 1.800 richieste, sottolinea l'onorevole Bonnici. speriamo che il programma sarà un successo e noi crediamo che sarà un successo. Noi abbiamo un'economia che va bene, abbiamo gente che lavora, ma vogliamo essere in possibilità di attirare gente che possono costruire posti di lavoro e fare la nostra economia più rilevante alla nostra società. Portando grandi capitali avrà diritto a degli sgravi fiscali, a delle agevolazioni? In che modo cercherete di rendervi attraenti? No, abbiamo un regime fiscale molto attraente perché per gli ultimi 3 anni abbiamo abbassato la tassa sull'income. Forse siamo l'unico paese in Europa, non so, che abbiamo abbassato le tasse negli ultimi 3 anni in consecutivo, perché l'economia sta andando piuttosto bene. Ma Malta non è l'unico Stato membro ad applicare queste condizioni. Già nel 2012 la Bulgaria era corsa ai ripari. A Sofia, infatti, lo straniero che richieda la naturalizzazione deve prima aver ottenuto il permesso di soggiorno quinquennale. Tra i requisiti per tale riconoscimento ci sarebbe anche l'opzione investimento nel paese per una cifra di $500.000. Il valore economico della cittadinanza non è però una peculiarità solo bulgara. A far cassa ci pensa anche l'Ungheria, dove è stata introdotta una vera e propria residenza di investimento attraverso l'acquisto di titoli di Stato speciali pari ad almeno €250.000. Di concedere la residenza stabile dietro un congruo pagamento si è pensato anche in Lettonia. Per ottenere il permesso di soggiorno qui basta acquistare un immobile da €143.000 circa, o addirittura meno se fuori dalla regione di Riga. In alternativa, per chi non volesse ammattire cercando l'affare immobiliare, può sempre comprare circa €300.000 di obbligazioni subordinate di un istituto di credito del paese. La Ria Baltica non è l'unica ad aver capito il gioco, le fa compagnia anche la sponda occidentale dell'Europa. In Portogallo, infatti, per ottenere il permesso di soggiorno, al quale poi si lega successivamente la cittadinanza, bisogna o aver trasferito qui un capitale di almeno €1.000.000, o aver creato almeno 10 posti di lavoro, o aver acquistato un immobile del valore di €500.000. Condizioni simili in Irlanda. C'è poi Cipro. Il Ministero dell'Interno dell'isola ci riferisce che sarebbero 38 gli stranieri naturalizzati ciprioti dalla promulgazione della legge. Nessuna informazione sulla nazionalità d'origine, protezione della privacy. A Nicosia la cittadinanza può essere ottenuta direttamente attraverso l'acquisto di proprietà o attività per un valore di €5.000.000, oppure tramite investimento in bond per €2.000.000 o anche deposito a 3 anni di €5.000.000. C'è poi l'opzione donazione, €500.000 al fondo per la ricerca. Anche l'Austria è stata spesso indicata come mecca della cittadinanza facilitata dal soldo. L'articolo 10,6 della legge sulla cittadinanza dice che questa possa essere conferita se il governo federale certifica che sia di particolare interesse per la Repubblica, in base a un contributo straordinario da parte dello straniero reso in passato o da aspettarsi in futuro. Di qui un'interpretazione personalizzata, ma il Ministero dell'Interno austriaco, da noi consultato, specifica che tale disposizione è indirizzata in primo luogo a scienziati e ricercatori, ad atleti, ad artisti affermati, a creativi nell'ambito della cultura e a imprenditori. Donazioni di denaro, investimenti finanziari o altri mezzi economici promessi non giustificano in alcun modo le condizioni per il conferimento della cittadinanza austriaca, affermano con fermezza da Vienna. All'interno dei confini italiani, il sottosegretario dell'Interni Domenico Manzione ha specificato come la cittadinanza nel nostro paese sia basata principalmente sullo ius sanguinis, il diritto di sangue. La legge è del 92, la 91 del 92, e privilegia in assoluto il criterio della discendenza diretta da cittadini italiani. È ammessa, ma molto limitatamente, un'ipotesi di diritto legato alla nascita sul territorio. Riconnettere il riconoscimento della cittadinanza a possidenze economiche o a investimenti addirittura somiglia un po' un modo a, come dire, un po' obliquo di comprarsi, uso l'espressione ovviamente tra virgolette, la cittadinanza. L'Italia potrebbe mai ricorrere a un requisito del genere. È preferibile, come dire, l'atteggiamento del Presidente del Consiglio. Quello che si deve muovere sono i capitali, non gente che porta i capitali e che per il solo fatto di averli portati diventa cittadino.